giorni dopo la morte di Everard, Harry e Caroline lasciarono Lady Place, portandosi dietro Laura. Il commiato fu per lei meno doloroso di quanto si aspettasse, e appena arrivarono ad Apsley Terrace, Caroline la mise subito a letto. Questo semplificò la sua infelicità, facendola sentire triste come lo si è da bambini. Laura aveva sentito gli altri convenire tra di loro che con il trasferimento a Londra tutto sarebbe stato molto diverso. Allora aveva giudicato stupido pensare che un qualsiasi cambiamento esterno potesse modificare il suo stato d'animo, ma dopo qualche tempo scoprì che avevano valutato la situazione meglio di lei. Nel Somerset aveva provato dolore per la morte di suo padre. A Londra quel dolore si era ritratto in repentine percezioni della sua perdita. Aveva creduto che la sofferenza sarebbe stata sua compagna per molti anni e aveva fatto dei piani per ospitarla. Ma ora le sue visite erano improvvise, come bufere di neve, come tenebre fulminee che traversassero il cielo, una sorta di gelido biancore che per un momento si impadroniva di lei. Cercava di ritrovare quel senso di rinuncia che aveva indossato come un velo, ma era scomparso e con quello era scomparsa anche la dignità del lutto. Harry e Caroline facevano del loro meglio perché lei non si sentisse infelice. Se si fosse trattato di passar sopra una qualche onta che la riguardava, non avrebbero potuto essere più sommessi e pieni di tatto. Il primo inverno trascorse come un torrente semighiacciato. Verso la fine dell'anno venne un gran freddo. Sacchetti di cotone rosso pieni di sabbia furono allineati sotto le finestre e Fancy e Marion pattinavano sul Round Pond coi loro piccoli manicotti di Astrakhan. Laura non pattinava, ma camminava di buon passo sul sentiero in compagnia di Caroline, ascoltando lo stridore delle lame che graffiava il ghiaccio e le grida dei gabbiani nel cielo. Londra le parve molto più fredda della campagna, benché Harry continuasse a ripetere che era impossibile. Le vennero i geloni e la cosa la indispettì, perché non li aveva più avuti da quando era bambina. Allora, quando le succedeva, la tata Quantrill la mandava fuori di mattina presto a correre a piedi nudi e sul prato coperto di brina. La casa di Apsley Terrace aveva un giardinetto, ma Harry l'aveva fatto coprire di ghiaia perché l'erba di Londra non gli piaceva e comunque non era uno di quei giardini dove si corre a piedi nudi. Era indispettita, anche perché l'acqua di Londra era molto dura, le sue mani così scarne erano sempre un po' rosse e ora per di più erano anche ruvide. Se avessero potuto restare inoperose non le sarebbe importato un granché. Ma Caroline non sedeva mai con le mani in mano, lavorava maglia, rammendava, cuciva e Laura non poteva starle davanti senza far nulla. Così, dato che i lavori utili li sbrigava tutti Caroline, le era toccato darsi al ricamo e ogni volta che un filo di seta le sfregava le dita aveva un soprassalto. Il tempo correva più veloce del lago. Allora sembrava di cucire se stessa sul ricamo con tantissimo sfondo. Ma come diceva Caroline, non era possibile sentirsi fiacchi quando c'erano tante cose da fare. Davvero, era sorprendente quante ce ne fossero per tutti. E anche Laura, che era stata inserita come una specie di ingranaggio di riserva, si trovò presto a far parte del meccanismo e a funzionare insieme agli altri ingranaggi animata dalla loro stessa operosità. Quando si svegliava, la giornata aveva già preso l'avvio. Dalla cucina proveniva il rumore dei ferri che frugavano fra le ceneri del giorno prima. Poi saliva l'odore di fumo di legna. Un fuoco nuovo era stato appeso nel camino pulito. Seguiva il rumore meccanico dello spazzolone per i tappeti, sul quale di tanto in tanto risuonavano i colpi regolari della scopetta per le scale che batteva contro la balaustra. La cameriera che le portava il tè e appoggiava l'asciugamano piegato sulla brocca dell'acqua calda aveva un'espressione esperta. Apriva le tende e, avendolo già visto, guardava al giorno senza curiosità. Quando la famiglia Willhouse si trovava riunita a colazione, tutte queste attività erano scomparse, come la marea che si ritira lasciando il suo arabesco sulla spiaggia liscia. Il resto della routine quotidiana si svolgeva inosservato. La porta veniva aperta a ogni scampanellio. I pasti venivano serviti puntualmente e l'unica cosa che appariva allo sguardo era la compiutezza. Eppure, sotterranee e non viste, la preparazione e la demolizione di ciascuna giornata provenivano come l'incessante recondito lavorio di cuore e visceri. A volte uno schianto, un'esclamazione, il rumore di una porta che sbatteva squarciavano quel velo di impersonalità, Altre, lo scroscio dell'acqua corrente a un'ora insolita e un leggero vapore agli ultimi piani tradivano il fatto che uno dei domestici stava facendo il bagno. Dopo colazione e dopo che Harry era stato accompagnato alla porta, Caroline scendeva in cucina e Laura si dedicava alla lettura del Times abbandonato in casa. Poi c'erano le spese da fare, le lettere da scrivere, i fiori da disporre nei vasi, la gabbia dei canarini da pulire e le bambine da accompagnare a passeggio. Compiti quali disporre i fiori nei vasi e pulire la gabbia dei canarini venivano svolti secondo una circospetta routine che li faceva apparire al contempo illeciti e solenni. La sistemazione dei fiori avveniva sempre nel gabinetto al piano terreno, dove si trovava un piccolo lavandino. In un armadietto venivano tenuti i vasi e il fil di ferro e appese con un pezzo di spago a un chiodo c'erano un paio di forbici. Una volta completata, la composizione, passando davanti ai cappotti appesi nell'anticamera, veniva trasportata con grandi precauzioni fino al luogo che le era stato destinato e lì deposta. Ogni martedì si cambiavano i libri alla biblioteca. Dopo pranzo c'era un po' di ricamo e ancora un po' di Times. Se era una bella giornata, Caroline usciva a far visite. Se pioveva, restava in casa ad aspettare di riceverne. Il sabato pomeriggio le bambine avevano lezioni di ballo, le accompagnava Laura, portando le scarpette in una borsa. Si sedeva insieme ai genitori e alle governanti delle altre allieve su una pedana che tremava alle prime note suonate dal pianista. Osservava l'esecuzione di polche, valzer e lancieri e ascoltava Miss Purley che diceva: "E ora da capo!" Alla fine della lezione si provavano le riverenze e dopo che Fancy e Marion le avevano sbagliate tutte, Laura avvolgeva vestiti di mussola e gomiti rossi negli halter grigi e le riportava svelte a casa. Erano bambine stupide e la stupidità non ostacolava certo la loro parlantina martellante. I loro modi e i loro pensieri erano governati da uno zodiaco di amichette e quando le due scendevano in salotto dopo il tè, allora sembrava che si portassero dietro di volta in volta le Wardour, le Wilkinson o le De La Butte. La cena era servita alle 7:30. Una regola assennata, stabilita da Caroline, sanciva che a tavola si discutessero solo questioni di interesse generale. I problemi che la giornata aveva riservato, se ne aveva riservati, venivano messi da parte. A questa usanza Caroline attribuiva il merito dell'ottima digestione di Harry, la quale veniva ulteriormente salvaguardata dopo cena da un'ora di tranquillità nello studio. Se Harry aveva molto da fare, quell'ora di meditazione era seguita da disbrigo di qualche pratica legale, altrimenti anche lui si univa al resto della famiglia in salotto o usciva per andare al club. Se restavano sole, Laura e Caroline andavano a letto presto, piacevolmente affaticate dal ritmo regolare dei pasti e delle giornate. Più tardi, Laura, mezza addormentata, sentiva Harry che rientrava. Il tonfo della porta che si richiudeva dietro di lui penetrava nelle stanze silenziose, seguito da un rumore di serrature e chiavistelli. Allora la casa, svuotata di un altro giorno, dopo un paio di scricchiolii, scivolava nel sonno, con il silenzio e la sicurezza sbarrati al suo interno come una targa alla moralità della famiglia. Il resto della notte era lasciato a disposizione del pendolo nell'ingresso, che largiva in parziale minuti, mezz'ore e ore. La domenica mattina Harry caricava l'orologio. L'una dopo l'altra, le due tremule catene venivano riavvolte fino a lasciare in vista solo la punta dei pesi, che incombevano gravemente sull'abisso del tempo in cui sarebbero discesi durante i 7 giorni successivi. Dopodiché la famiglia andava in chiesa, dove, in modo del tutto analogo, veniva ricaricata per la settimana. I Willows frequentavano anche la funzione serale, che tuttavia era meno austera. La giustizia divina suonava meno implacabile e se un ombrello rovinava a terra il silenzio che seguiva era meno indignato. Il sermone era più breve, o così sembrava, e imboccava con maggiore decisione l'andata in pace. Alla funzione serale seguiva una cena fredda. Anche Fancy e Marion rimanevano alzate per prendere parte a quel pasto festoso che comprendeva golosità fuori dall'ordinario come sardine e sedano. I pesi di piombo avevano già incominciato la loro discesa. Caroline era una donna religiosa, risoluta, ordinata e pratica com'era, sarebbe stata un'eccellente madre superiora. Nel suo modo di amministrare la casa e di tenere scrupolosamente i conti esprimeva un senso quasi mistico dell'importanza delle piccole cose. Come molti veri mistici, però, era scostante e poco comprensiva. Una volta sola aveva esternato alla cognata la propria intima spiritualità. Era a letto con l'influenza e aveva chiesto a Laura che l'assisteva di prenderle una camicia da notte pulita. Aprendo il terzo cassetto del grande comò di Mogano, Laura aveva espresso la sua ammirazione per lo splendido ordine con cui era riposta la biancheria. «C'è chi ci ha dato l'esempio», aveva risposto Caroline. «Nel sepolcro il sudario era piegato». Con lo sguardo fisso nel grande cassetto scuro in cui camicie da notte e sottovesti erano disposte in pile perfette, tanto pure da disegnare persino la lavanda, Laura provò un leggero brivido di fronte alla rivelazione dei pensieri privati della moglie di suo fratello. Non disse nulla, né successe più che Caroline si confidasse con lei a questo riguardo. Laura non dimenticò mai quell'episodio. Caroline sembrava affettuosa con lei, era piena di buon senso, sapeva dare ottimi consigli senza mai farlo pesare. Lei la considerava una buona moglie, una madre amorevole e discreta, una padrona di casa affabile e una cognata scrupolosa. Era anche piuttosto golosa, ma nessuna di queste qualità serviva a far sentire Laura a proprio agio con lei. In confronto a Caroline, sapeva bene di essere priva di senso pratico, di metodo e di iniziativa. Assolveva con zelo e attenzione ai compiti che le venivano delegati, ma le restava pur sempre l'impacciata consapevolezza che Caroline li avrebbe assolti meglio in minor tempo. Anche quando doveva semplicemente reggere una matassa di lana mentre Caroline ne faceva un gomitolo, le grandi dita bianche della cognata si muovevano così rapide che era lei ogni volta a dare uno strattone al filo, ancor prima che Laura, vedendola accorciarsi, si ricordasse di piegare la mano. Ma tutto questo, grazie alla sua umiltà e alla gentilezza di Caroline, si poteva superare. Era nelle cose che non si vedevano che lei sentiva la propria inadeguatezza. Laura non era affatto religiosa, non lo era nemmeno abbastanza da meditare sull'irreligiosità. Accompagnava Caroline alle prime funzioni del mattino ogni volta che le sue domande parevano suggerirglielo e ogni domenica partecipava alla funzione mattutina e a quella serale. Si inginocchiava accanto alla cognata e ascoltava la sua voce, il cui tono squillante nel dare gli ordini quotidiani le era tanto familiare, pregare sommessa e pacata. La religione era il libro di preghiere della propria zia Salomè, che Caroline stringeva fra le mani guantate. La religione era un'intima venatura nella vita dei Willhouse, e quel libro ne era il segno esteriore, come la pasta sfoglia lodata da Re Giorgio III. La religione era qualcosa da preservare, era parte della vita dei Willhouse, come lo era il libro di preghiere, preservato di generazione in generazione. La parrocchia che frequentavano le era venuta a noia. Ora che abitava a Londra avrebbe voluto vedere il mondo, arrischiarsi in altre chiese. Era attratta in modo oscuro e avventuroso dalle funzioni dei cattolici, degli ugonotti, degli unitariani e degli swedenborgiani. E ci pensava più o meno come pensava all'East End. Espresse il proprio desiderio a Caroline e inaspettatamente questa si dimostrò disposta ad assecondarlo, ma Harry non ne volle sapere. Non andava affatto bene che Laura frequentasse posti diversi dal luogo di culto della famiglia, disse. Per Harry, il luogo di culto della famiglia era il banco sul cui leggio poggiava il libro di preghiere della propria zia Salomè. Il suo, visto che era un uomo e aveva meno tempo per pensare a certe cose, era un sentimento meno articolato di quello di Laura, così propensa a sconfinare, tuttavia assai intenso. Laura pensava che Caroline le sarebbe piaciuta se soltanto fosse riuscita a capirla. Capire Harry non era difficile, ma per quanto perfettamente potesse capirlo, non riusciva a trovarlo simpatico. Dopo alcuni anni trascorsi sotto il loro tetto, Laura era arrivata alla conclusione che Caroline avesse avuto un influsso molto nocivo sul carattere del fratello. Era una donna d'oro e una buona moglie, un tantino santimoniosa e non senza ragione. Eppure ogni volta che c'era una discussione cedeva al parere di Harry, inchinava il proprio buon senso alla volontà del marito e per obbedire ai suoi pregiudizi limitava le proprie vedute, che erano più ampie. Harry stimava molto le qualità di Caroline, ma proprio perché riteneva sua moglie tanto ammirevole e la trovava al contempo tanto condiscendente, si sentiva incoraggiato a stimare ancora più le proprie. Per quanto lei si adoperasse per essere una buona moglie, non avrebbe potuto fare di Harry un cattivo marito né una cattiva persona. Era troppo Willhouse per esserlo. Ma così facendo, Caroline alimentava la sua vanità. e dava manforte alla sua prepotenza. Laura era convinta che anche la carriera legale avesse contribuito enormemente a rovinare Harry. Aveva trasformato la sua naturale e risoluta stupidità in una tirannica indifferenza all'altrui punto di vista. Sembrava si considerasse incaricato dal creatore di mettere in ridicolo le opinioni di tutti coloro che non erano d'accordo con lui e di accusare di disonestà, idiozia o motivazioni meschine chiunque sostenesse argomenti migliori dei suoi. Ciò non emergeva spesso nella sua vita privata, perché Harry era ben disposto verso coloro che non lo ostacolavano, né con le parole né con le azioni. Caroline aveva ben ammaestrato la famiglia ad arrendersi docilmente e badava bene a non avere mai ospiti che non condividessero il modo di pensare del marito. La maggior parte delle loro conoscenze avevano a che fare con il mondo legale. Laura acquistò dimestichezza con i modi avvocateschi, ma non ne fu mai catturata. Aveva la sensazione che quegli uomini perfettamente rasati, con le sopracciglia ispide, nascondessero affabilmente i loro dubbi sulla sua intelligenza e la sua probità. Le loro mascelle sembravano tante trappole per topi, in cui i luoghi comuni facevano da esca. Davanti a loro si sentiva timida e non si lasciava mai andare. Era una vera sfortuna, dal momento che Harry e Caroline avevano sperato che qualcuno di loro si sarebbe innamorato di Laura quanto bastava per sposarla. Mr. Fortescue, Mr. Parker, Mr. Jermyn, Mr. Danby, Mr. Trash vennero di volta in volta individuati come adeguati e probabili pretendenti. Harry e Caroline fecero ogni debito sforzo e anche i prescelti ci misero un certo impegno, ma Laura non dimostrò la minima buona volontà. Avevano ormai perso ogni speranza quando una domenica invitarono Mr. Arbuthnot. Lo invitarono mossi da compassione e comunque solo per il tè, perché era molto timido e tartagliava. Con grande sorpresa videro Laura darsi da fare per essere gentile con lui e con altrettanta sorpresa videro Mr. Arbuthnot rinunciare a esprimersi a norma di legge per lanciarsi in una balbettante ma entusiastica esaltazione delle passeggiate sulle montagne del Galles con la relativa raccolta di felci. Osarono appena sperare, giacché ritenevano che il tempo della speranza fosse ormai passato. Tuttavia lo invitarono a cena e fecero del loro meglio per mostrarsi cordiali. Mr. Arbuthnot accolse le loro avance senza sorpresa, data l'ottima opinione che aveva di sé. Arrivato a 35 anni, riteneva di meritarsi una moglie e gli pareva che Laura fosse quello che ci voleva. Sua zia, Lady Rose Price, cercava sempre di assumere i domestici che erano stati a servizio dai Willows perché Mrs. Willows sapeva addestrarli tanto bene e Mr. Arbuthnot supponeva che fosse altrettanto portata nell'addestramento delle mogli. Cominciò a pensare a Laura con una certa tenerezza e Caroline si mise a leggere con solerzia il catalogo degli empori generali. Fu a questo punto che Laura, che da anni si comportava benissimo, decise di seguire il proprio estro e di distruggere in 5 minuti le buone intenzioni di altrettanti mesi. Aveva cominciato a considerare Mr. Arbuthnot alla stregua di un passatempo ozioso. La sua balbuzia glielo aveva reso caro. Dopo tanti modi forensi, quel difetto aveva un che di sincero. Nulla avrebbe potuto spingere a sposarlo. Tuttavia era prontissima a intrattenersi con lui e persino a chiacchierare con naturalezza degli argomenti che predominavano nella sua mente. I pensieri di Laura continuavano a spaziare nonostante tutto. A volte diceva cose piuttosto divertenti e rivelava insospettati depositi di conoscenze, ma le sue osservazioni erano in genere così lontane dalla conversazione in corso che nessuno vi prestava attenzione. Di certo, Mr. Arbuthnot, quando aveva affermato che febbraio era un mese pericoloso, non si aspettava quella risposta. È proprio così, concordò Laura, quasi con veemenza. Se lei fosse un lupo mannaro, e perché no, potrebbe esserlo benissimo, dato che molte persone lo sono senza saperlo. Beh, tra tutti i mesi, febbraio è quello in cui potrebbe più facilmente trovarsi a spaventare le pecore in una notte buia e ventosa. Harry e Caroline si scambiarono un'occhiata inorridita. Davvero interessante, disse Mr. Arbuthnot, ma non credo mi possa capitare una cosa simile. Laura non rispose, nemmeno lei lo credeva, ma si divertiva a dipingere nella sua fantasia la strabiliante, vivida immagine di un Mr. Arbuthnot intabarrato in un'ispida pelliccia che correva a quattro zampe con greve divorante lestezza e un agnello che gli penzolava dalla bocca. Harry e Caroline rinunciarono a trovarlo un marito. Cercarglielo era stata una grande seccatura e dispendiosa per giunta, ma Lora non aveva mai mostrato la minima gratitudine per il disturbo che si erano dati. Tra non molto poi ci sarebbe stato da pensare alle ragazze. Fancy aveva 16 anni e Marion era già alta quasi quanto sua sorella. Nel giro di 2 anni sarebbero stati da capo. Erano contenti di potersi concedere una pausa e cercarono di godersela il più possibile. Anche Lora fu contenta di poter tirare il fiato. Si comprò dei libri di seconda mano, Erodoto e il vocabolario di Johnson da leggere alla sera. Caroline, sempre seduta ad attaccar bottoni, osservava il profilo sereno della cognata. I capelli di Lora erano ancora tutti neri, ma meno folti. La vita a Londra l'aveva fatta diventare più pallida. Non c'erano rughe sulla sua fronte, ma 2 linee le prolungavano verso il basso gli angoli della bocca, già curvi all'ingiù. I suoi lineamenti cominciavano a rigidirsi, avevano perso la loro espressività ed erano sempre più dominati dal naso adunco e dal mento aguzzo, che 10 anni dopo avrebbero avuto il sopravvento. Caroline si rassegnò all'idea di trascorrere il resto delle sue serate con loro accanto. La compagnia perpetua di una cognata non era precisamente ciò che si era auspicata sposandosi, ma ormai era fatta e Harry aveva comunque ragione. Alla morte del padre, accoglierla era stata la cosa più giusta e adesso Lora era troppo vecchia per andare a vivere da sola. Non si poteva dire che avesse esperienza della vita. Era passata dalla tutela del padre a quella del fratello ed era impossibile immaginarla in grado di badare a se stessa. I pensieri di Caroline furono pervasi da una sorta di compassione per la vergine negletta che le sedeva di fianco, non che attribuisse un valore smisurato al proprio stato di donna sposata e di madre. Per lei era una questione di doveri più che un motivo di vanto, eppure si sentiva effettivamente più florida di Lora. Era un bene essere amata, essere necessaria ad altre persone. Ma anche Lora era amata, anche Lora era necessaria. Caroline non sapeva come avrebbero fatto le bambine senza zia Lolly. Tutti la chiamavano zia Lolly, tanto che, con il passare del tempo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Di ciao a zia Lora, aveva detto un giorno Caroline a Fancy. Era accaduto molto tempo prima a Lady Place, nella nursery imbiancata di fresco, dove Lora si era timidamente inginocchiata davanti alla sua prima nipote, mentre la balia londinese si dava da fare intorno a loro, togliendo dalle valigie morbide spazzole per i capelli e vasetti di crema e appendendo la biancheria sull'alto paracenere perché prendesse aria. Ciao, zia Lolly, aveva detto Fancy, tendendole graziosamente una scimmietta di peluche. Le sei piaciuta subito, Lora, aveva osservato Caroline. Avevo paura che il viaggio la innervosisse, ma l'ha presa meglio di noi. Un viaggio non è niente per un bambino di questa età, signora, era intervenuta la balia. Perché non dice alla zia come si chiama la tua scimmietta? Zia Lolly, ripeté Fancy, picchiando ritmicamente la scimmia contro la gamba del tavolo. Il nome inventato da Fancy fu accettato da Marion e da Titus, e non ci volle molto prima che cominciassero a usarlo anche i loro genitori. Everard non la chiamò mai altro che Lora, anche quando parlava di lei con i nipoti. Era troppo vecchio per cambiare le sue abitudini e nutriva comunque dei pregiudizi nei confronti di diminutivi e soprannomi. Ma al momento di trasferirsi a Londra, Lora si lasciò Lora alle spalle e acquisì lo status di zia Lolly. Con il Somerset aveva abbandonato tanta parte di sé che le sembrò naturale rinunciare anche al proprio nome. Spoglia ormai delle prerogative di padrona di casa che aveva esercitato senza sforzo, priva delle sue lunghe giornate di vagabondaggi per le campagne, vestita di abiti inusuali, assegnata ai compiti insoliti e coricata in un letto con la testiera di ottone al posto del suo vecchio pomposo letto a baldacchino, le sembrava di essere diventata un'altra persona. O meglio, era diventata due persone. L'una diversa dall'altra. La prima era zia Lolly, una signora di mezza età che saliva le scale con passo leggero, una presenza indispensabile nei preparativi per il Natale e i compleanni. L'altra era Miss Willhouse, mia cognata Miss Willhouse, come la presentava Caroline, per poi abbandonarla alla sensazione di non essere affatto una signora dal passo leggero e tantomeno una presenza indispensabile. Lora, comunque, era stata messa da parte. Quando Harry le chiedeva di firmare un documento, Quel Laura Erminia Willhouse le sembrava tanto estraneo al linguaggio comune quanto il nubile che seguiva. Allora fissava il documento e la sorprendeva che un nome così solenne appartenesse proprio a lei. 2 volte all'anno, in primavera e in estate, la famiglia Willhouse andava in vacanza in campagna. Per i primi 3 anni dopo il trasferimento di Laura andarono, come era naturale, a Lady Place. In quelle occasioni si ripropose il problema di come 2 nipoti di un sesso potessero giocare da brave con un rappresentante molto più piccolo del sesso opposto. Fancy e Marion giocavano alle signore sotto i rami bassi del frassino e Titus faceva il maggiordomo con un vassoio di latta, ma non ci voleva molto perché corresse via a giocare da solo ai soldatini, tatuando il vassoio con marziali pestaggi. Questa volta, però, non c'era pericolo che il più piccolo cadesse nello stagno. Zia Lolly stava costantemente allerta. Allora faceva piacere tornare in visita a Lady Place, ma era un piacere che si fermava in superficie. La consapevolezza di essere ormai un ospite in quella che un tempo era stata casa sua sembrava separarla come una lastra di vetro dall'ambiente che la circondava. Non provava nemmeno un po' del risentimento di chi viene espropriato dei suoi averi. Raramente le capitava di pensare ai vecchi tempi. Era come se nello strazio di lasciare Lady Place, dopo la morte del padre, l'addio pronunciato fosse stato così irrimediabile da non permetterle più di ritornare veramente. Tuttavia, le visite a Lady Place ebbero tristemente fine quando nel 1905 James, all'improvviso, morì di infarto. Sybil decise che non poteva vivere da sola in campagna. Trovarono quindi un amministratore che si occupasse della fabbrica di birra. Lady Place venne affittata senza mobilio con un contratto a lunga scadenza e Sybil, con l'erede del nome e delle tradizioni dei Willhouse, che allora aveva 4 anni, si trasferì in una casetta a Hampstead. Sybil aveva proposto di vendere parte dei mobili, dato che ce n'erano decisamente più di quanti gliene corressero e la maggior parte erano troppo ingombranti per la sua nuova casa. L'idea fusteggiata da Henry e con notevole impeto. La dimora della famiglia, lo ammetteva, doveva essere smembrata, ma non avrebbe permesso che se ne andasse alienata neppure la minima parte. Tutti i mobili che non potevano trovare posto nella casa di Hampstead o in Apsley Terrace dovevano essere messi in magazzino finché Titus avesse avuto l'età giusta per riprendere possesso di Lady Place. Allora sembrò che un ruscello dal mormorio familiare si fosse improvvisamente infilato sottoterra. Lì avrebbe continuato a scorrere, zittito e oscurato, fino al momento in cui sarebbe riapparso e avrebbe ripreso a mormorare tra le sue verdi sponde. Laura pensò a quando Titus, ormai adulto, e lei, una donna anziana, si sarebbero incontrati in mezzo agli oggetti conosciuti. Era convinta che quella sensazione spettrale che l'angustiava avrebbe avuto meno importanza una volta raggiunta la vecchiaia. Sperava di non morire prima di quel giorno, se non altro perché avrebbe ricordato ancora perfettamente la disposizione dei mobili nelle stanze e dei quadri sulle pareti, cosa impossibile per Titus. Ma allora, si disse, Titus avrebbe avuto una moglie con gusti propri. In passato Sibilla avrebbe voluto modificare molte cose, ma la forza della tradizione era troppo radicata perché lei potesse opporvisi. Nel giro di 20 anni tutto sarebbe stato molto diverso. Siede, tavoli e vetrine sarebbero emersi dal loro lungo sonno nel buio, intorpiditi e dimentichi, privi ormai di quell'individualità con cui ciascun pezzo aveva fatto così indiscutibilmente proprio un certo angolo. La Lady Place che lei conosceva non c'era più. Poteva riandarvi con la memoria, se le faceva piacere, ma a pensarci, no. Nel frattempo, l'arpa di Emma trascinò le sue corde nella stanza di Laura. E Ratafì fu trasferito a Hampstead. Titus aveva insistito su questo punto. Laura si chiedeva se Harry si sentisse come lei. Nella faccenda dei mobili aveva manifestato un vero temperamento da Willhouse, ma per il momento non si era espresso. Fisicamente Harry si diceva assomigliasse al nonno, quello che aveva lasciato il Dorset per il Somerset, un sacrilego abbandono presto santificato dall'amore dei Willhouse per la dimora di famiglia, tanto che dopo 3 generazioni Laura provava quell'amore per Lady Place. Harry sembrava assomigliare al nonno anche nel carattere. Poteva ospitare nella sua mente pratica tutte le tradizioni dei Willhouse e per il resto parlare solo di cose assai concrete. Si occupò dei termini del contratto di affitto di Sybil, degli accordi con l'amministratore della fabbrica di birra e di trovare un luogo di villeggiatura adeguato per la famiglia. Dopo alcuni esperimenti, i Willhouse arrivarono a stabilire una routine che, a parte qualche modifica per amor di varietà o comodità, fu fedelmente rispettata nel corso dei 15 anni seguenti. In primavera andavano in una stazione climatica moderatamente alla moda e stavano in albergo, date le variabili primavere inglesi, per non parlare della Pasqua, in quel periodo dell'anno ai loro occhi la soluzione dell'affitto lasciava un po' a desiderare. In estate invece sceglievano un paesino di mare senza particolari attrattive e lì cercavano un appartamento o una casa arredata. Non che lo facessero per risparmiare, non ne avevano bisogno, solo trovavano che le vacanze semplici e un po' noiose fossero le più riposanti. Harry si accontentava di qualche partita golf senza pretese e un po' di pesca. Le bambine facevano il bagno, giocavano sulla spiaggia e andavano in gita in bicicletta. Quanto a Caroline e Laura, guardavano le bambine fare il bagno e giocare, rimpinguavano le loro scorte di biancheria e si riposavano dalle fatiche della gestione domestica di Londra. Di tanto in tanto, Caroline leggeva qualcosa. A volte si univano a loro Sybil e Titus, oppure soltanto Titus mentre sua madre andava in visita da qualcuno. Laura aspettava con piacere le vacanze estive. Delle vacanze di Pasqua non le era mai importato un granché, dato che aveva una speciale antipatia per le palme. Tuttavia, superata l'emozione dell'arrivo e dell'odore del mare, le giornate sembravano scivolar via l'una dopo l'altra, né più né meno che a Londra. E quando, alla fine della vacanza, sulla carrozza riandava alle settimane passate, trovava che dopo tutto aveva fatto ben poche delle cose che aveva progettato. Avrebbe voluto fare lunghe passeggiate solitarie in campagna e cercare erberare, ma era troppo indispensabile perché le fosse consentito di perdersi in vagabondaggi. Una volta aveva formulato il vago progetto di studiare le patelle, ma nonostante le lunghe sedute aveva scoperto soltanto che se si rimane immobili per molto tempo, la patella comincia a spostarsi lateralmente ed è quasi impossibile concentrarsi per molto tempo su un soggetto piccolo come una patella senza sentirsi vagamente ipnotizzati e senza provare un senso di malessere. Il meno che potesse succederle era di non riuscire a leggere tutti i libri o a finire tutti i lavori di ricamo che aveva portato con sé. E le lentiggini che le comparivano sul naso si riprendevano gioco di lei, sottolineando la sensibilità della sua pelle di fronte al sopore dei suoi sensi.